Adolf Hitler racconta delle sue esperienze di soldato durante la Prima Guerra Mondiale. Fra queste esperienze c'è quella sera in cui sta consumando la cena in trincea con parecchi suoi commilitoni. All'improvviso gli parve di udire una voce che gli diceva: alzati e allontanati da qui. La voce gli parve così chiara e insistente che lui, da buon militare, obbedì immediatamente. Prese la sua gavetta e se l'andò a mangiare solo soletto, una ventina di metri più in là. Non fece in tempo a finirla che un lampo e un'assordante deflagrazione esplosero proprio nel punto che aveva appena lasciato. Una granata aveva dilaniato i suoi commilitoni, dei quali neppure uno si salvò. Nel 1944 Gary Cooper è il protagonista di un film di Sam Woods, Le tre donne di Casanova, e vi interpreta il ruolo di un innamorato che, in quanto spilungone, si vedano gli spilungoni per esempio interpretati da James Stewart all'epoca, in quanto spilungone ad essere alquanto imbranato, diciamo così. Arriva il momento in cui la fidanzata se lo porta a casa, una ricca villa coloniale sullo stile di Via col Vento, e lo presenta alla madre. Questa prende subito di petto la questione e prima di dare il suo assenso all'unione gli chiede il segno zodiacale. Gli chiede il segno zodiacale e si ritira nella sua biblioteca al fine di consultare quei suoi preziosi libri astrologici da cui dipende il futuro della coppia. Lui è perplesso, ma la ragazza lo prega di assecondare le credenze della madre, e nell'attesa lui decide quindi di fumarsi una sigaretta. La ragazza allora lo informa che la madre, oltre che astrologa, è anche salutista e rigorosamente contraria al fumo. L'informazione è tanto ben compresa che al riapparire della madre, Gary Cooper, per non farsi sorprendere, si infila prontamente la sigaretta accesa in tasca e si dispone ad ascoltare il verdetto delle stelle. Verdetto delle stelle che è negativo, negativissimo. Lui allora prova a reagire e sbotta, dicendosi sorpreso che ancora ai suoi tempi ci fosse qualcuno che affidava vita propria altrui a quell'ammasso di scempiaggini. Con il risultato di procurare un mancamento alla madre e quel panico generale in cui lui si accorge che la sua giacca sta per prendere fuoco, prende la sigaretta e la butta nel primo cestino che trova. Da lì, senza che nessuno riesca a intervenire, il fuoco si propagherà alle tende e dalle tende all'intera villa coloniale, che sul modello narrativo del vecchio cavallo di battaglia di Nunzio Filogamo, tutto va bene, madama la marchesa, va letteralmente in fumo. Oltre che una sfortunatissima coincidenza, sfortunatissima non per lui ma per il mondo intero, il racconto di Hitler serve a capire perché lui, a guerra finita, si iscriva alla Thule, una società segreta fondata da Rudolf von Sebottendorf, che già dal nome, Thule, che si voleva designasse la mitica Atlantide, già dal nome garantiva saperi e poteri occulti agli iniziati, divenendo poi fra il 18 e il 20 la matrice fondamentale del partito nazista. La storia delle nefandezze relative e del nesso fra esoterismo e socialnazionalismo è ben ricostruita da Giorgio Galli in Hitler e il nazismo magico, e non occorre dunque che mi ci soffermi io. Noto invece che Le tre donne di Casanova è stato girato nel 44, a guerra non ancora vinta. Gary Cooper aveva già dato del suo all'ideologia bellica interpretando nel 41 il sergente York, un film che avrebbe dovuto convincere gli americani più riottosi ad accettare l'inevitabilità di una guerra contro i tedeschi. E anche qui, guardando bene, anche qui nelle tre donne di Casanova, Cooper contribuisce alla causa. La La riluttante suocera, intanto è suocera, categoria che nello schema valoriale della commedia è già schierata fra le forze del male. Intanto è suocera e poi è nemica del fumo e fedele all'astrologia. Due caratteristiche che hanno contrassegnato la tragica e delirante parabola hitleriana. Difficile credere che nell'America del 44 la somma dei tre fattori non servisse sagacemente alla confezione ideologica del personaggio, negativa per lei quanto positiva per tutti coloro che le si fossero confrontati. Guardo la televisione, c'è Manolo lo spagnolo che infiamma batuffoli di cotone, li butta nel catino, ci rimescola un po' e poi dice di interpretare i colori delle fiamme. Così lui sa chi vince il prossimo campionato del mondo di calcio e altre ghiottonerie dell'esistenza. Che quel che vede sia pari pari a quel che dicono i pronostici è una pura, immagino, una pura coincidenza. Finisce Manolo lo spagnolo e comincia un numero di magia nera. Di nero c'è tutto, di magico niente. Il mago di turno prima infilza la bionda fanciulla compiacente e poi la fa sparire. Applausi e chi l'ha vista l'ha vista. Ora, cosa segue? Ora tocca all'oroscopo. Mezz'ora di oroscopo con pubblicità fra segno zodiacale e segno zodiacale. Volessimo respirare cambiando canale, ci aspetta Miracoli, dove medici, biologi, fisici interdetti connivono con pretume disinvolto nel commentare le sbigottite disgrazie altrui. Ciò nonostante il Papa, dimenticandosi che per un millennio e mezzo ci sono ingrassati su anche loro, almeno fino a quando l'aria della riforma protestante li ha consigliati a più mitere pretese, il Papa tuona contro gli oroscopi, ma non con gli argomenti giusti. Si guarda bene dal dire che non hanno alcun fondamento. Dice invece che Gesù ci esorta a non investigare inutilmente sul corso degli eventi. Inutilmente. Così finisce con il ratificare l'astrologia per l'ennesima volta e il futuro si può sapere per filo e per segno, ma essendo saldamente nelle mani di Dio non è modificabile e dunque è inutile saperlo. Alzando il livello dell'astrologo, l'astrologia in quanto tale ne risulta addirittura fortificata. Giulio Kecic sul Corriere della Sera ci assicura che Harry Potter ha a che fare con l'ideologia nazista quanto i cavoli hanno a che fare con la merenda. Però si dice certo del rapporto fra il Signore degli Anelli e la destra italiana. Fornisce la dimostrazione grazie al ricordo di un lontano giorno del giugno 77, allorquando Marco Tarchi, che è l'autore di 50 anni di nostalgia alla destra italiana dopo il fascismo e di altri scritti paradestrorsi, partecipò all'inaugurazione del primo campo Hobbit a Monte Sarchio nel Sannio, provincia di Benevento. Il nome dei gnomi dei romanzi di Tolkien consacrerebbe al meglio la coniugazione del mito con la ribellione contro l'esistente, che per Kecic sarebbe uno stigma tipico del pensiero destrorso, come se di miti la sinistra non si fosse mai pasciuta e come se la ribellione contro l'esistente non le dovesse neppure passare per la capa. Tuttavia il sospetto che i campi Hobbit siano di destra a posteriori e per autodichiarazione, solo perché li ha organizzati qualcuno di destra firmandosi come tale, è più che legittimo. Se Harry Potter fosse il nome dei prossimi campi di qualche organizzazione di destra, ecco che i cavoli a merenda sarebbero serviti e bene accetti. Con Harry Potter sì e il Signore degli Anelli no, Kecic fa come il Papa. Salva il fondamento esoterico e lo rafforza nella misura in cui ne ammette la legittima pratica in tutto ciò che nel pensiero di destra non si identifica. Del biologo Henri Laborie ho avuto ampia stima. La sua tesi sull'origine delle nostre difficoltà socio-relazionali, la tesi secondo cui la nostra salvezza starebbe o nel fuggire o nell'aggredire, mentre la nostra condanna starebbe nella frustrazione di subire in silenzio, mi pare convincente, e tutta poi la sua attenzione agli aspetti politici e sociali della medicina mi hanno sempre portato a considerarlo con deferenza. Tanta deferenza da dare un'occhiata alla sua autobiografia. Henri Laborie, la vita anteriore. Autobiografia che comincia parlando dei suoi genitori in Indocina al momento del suo concepimento e della sua nascita. Sua madre, racconta Laborie, partorì all'ospedale coloniale di Lanessan ad Hanoi il 21 novembre 1914, sotto una congiunzione astrale in cui certi specialisti di astrologia hanno voluto individuare lo svolgimento logico del mio destino e sotto l'influenza del segno dello scorpione diretta e nell'ascendente. Ho lasciato perdere il seguito. Salgo sul treno appena in tempo rispetto all'orario di partenza. È un Eurostar e dunque mi cerco il mio posto debitamente e obbligatoriamente prenotato. Mi siedo, tiro fuori il libro e il giornale e mi ci butto. Dal nervosismo di chi mi sta di fronte, tuttavia, dopo un po' mi accorgo che c'è qualcosa che non va. Il treno, il treno non è ancora partito. I minuti cominciano a diventare decine di minuti e nessuno ci dice cosa sta succedendo, il treno non parte. La vaga inquietudine di chi non sa più né dove qualcosa comincia né dove questo qualcosa finisce mi impedisce di leggere alcunché. Passa più di mezz'ora e siamo ancora lì. Più di un passeggero ormai in piedi. Alzo la testa e a 3 o 4 metri da me ne riconosco uno e lo riconosco proprio mentre lui guarda me. Riconoscendomi, sorride, viene verso di me. È un intellettuale di sinistra, extraparlamentare per scelta un tempo, extraparlamentare ancora adesso più per condizionamento che per scelta. Non dirige settimanali ma scrive libri di storia. Ne ha scritto giusto uno nei mesi scorsi che parla di come certi personaggi del fascismo abbiano sfruttato la cultura esoterica prima per ottenere potere. E poi a fascismo cadente e caduto per non perderlo questo potere. Mi si fa incontro l'intellettuale di sinistra, mi porge la mano sorridendo e dice la sua. Ecco perché il treno non parte, ci sei tu. Lasciando perdere un seguito che ovviamente non c'è stato, perché dopo il dove vai, dove non vai, vabbè ci sentiamo, gli altri convenevoli d'uso, lui se ne è tornato al suo posto in attesa che il treno si decidesse a partire, l'episodio in tutta la sua miseria varrebbe un paio di riflessioni. La prima sulla brodaglia di cultura da cui costui scaturisce. L'assegnazione di cause alla mia persona rispetto all'effetto del treno fermo non può essere semplice farina di un sacco solamente suo. C'è una nicchia brulicante di intellettuali ratificati in cui si è alimentato. La seconda verte invece sul consociativismo epistemologico che caratterizza intellettuali di sinistra e di destra appena si penetri un po' più a fondo nei rispettivi quadri ideologici. Evitando di fare i conti e con la filosofia e con la scienza, rotti ad ogni trasformismo, assetati di un potere che accettano qualsiasi sia la sua provenienza, si ritrovano uniti attorno ai tavolini a tre gambe, pronti a farsi leggere la mano o a farsi fare l'oroscopo, sedando ogni loro rigurgito di coscienza con belle dosi di superstizione. La quarta di copertina di Hitler e il nazismo magico di Giorgio Galli, editore Rizzoli, si conclude con queste precise parole. Un libro affascinante che dimostra come una grande nazione europea in pieno XX secolo abbia potuto in parte accettare una cultura che quella ufficiale e accademica si ostina ancora a definire irrazionale. Basta poco dunque per contraddire una tesi. Basta pochissimo ad un editore per avvelenare il libro di un suo autore. E se la paziente investigazione di qualcuno riporta alla luce i chiari segni della follia di chi ci ha preceduto, facendo tutto il male che poteva, e se la paziente censura di qualcun altro più potente del primo, copre questi chiari segni di quella follia, ci dobbiamo attendere da un momento all'altro una nuova esplosione della medesima follia. In trincea, come dicevamo, Hitler sente una voce che gli dice: alzati e allontanati da qui. E lui allora prende il suo gavettino con la cena e pianta in asso tutti i suoi commilitoni, si ferma ad una ventina di metri e riprende a mangiare. Mettiamo il caso, ora, che la granata arrivi proprio nel punto dove si è spostato Hitler. Avremmo avuto tanti superstiti in più e una sola vittima dell'esoterismo, ma nessun racconto che ce lo certifichi. (Susurra)